as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, di nuovo qui a Il Pane e le Rose. Oggi puntata metalmeccanica, oggi puntata sempre sul contratto, è la terza, non sarà l'ultima. Speriamo di farne altre quando inizieremo le lotte, perché tra un po' finirà il referendum l'11 d'aprile. È stato l'ultimo giorno in cui si è potuto votare, i risultati stiamo attendendo, ma chiaramente ci sarà una stragrande maggioranza di lavoratori che hanno votato a favore della piattaforma. Poi si presenterà Federmeccanica, contratto nazionale dei metalmeccanici, voglio dire, è un contratto tra i più importanti in Italia. Ne abbiamo parlato nei scorsi giorni, abbiamo sentito De Palma, il segretario nazionale, che è proprio durante la presentazione della piattaforma a tutti i delegati della FIOM nazionali, della WILM e della FIM. Abbiamo ascoltato Gianni Cotugno, un'ultima puntata, le potete trovare tranquillamente in podcast nella pagina Il Pane delle Rose. Andate sulla pagina Facebook Il Pane delle Rose, ci sono i link dei podcast, cliccate e li troverete lì. Tutte le puntate, se siete interessati, troverete tutte le ultime 50 puntate che abbiamo registrato. Oggi però, siccome noi siamo democratici, siamo in FIOM anche perché siamo per la democrazia, e devo dire, lo dico sempre, in CGL, in FIOM, soprattutto, ma in tutte le altre categorie della CGL, si può anche dissentire, si può anche dire la propria, si può votare no, si può dire perché si vota no, si può non essere d'accordo su una piattaforma che tutti stanno dicendo che è la migliore piattaforma del mondo. E tra queste persone c'è Paolo Brini, il nostro cantante preferito, funzionario della FIOM, uno dei leader dell'area sindacale Giornale di Marzo, di cui faccio parte anch'io, faccio parte del coordinamento nazionale Giornale di Marzo, che è l'area di sinistra della CGL. I metalmeccanici di quest'area si sono schierati per il no. Chiaramente siamo minoritari, sia in CGL che in FIOM, però è giusto che anche noi, in questo caso, e anche Paolo, che è nel comitato centrale, che ha diritto di voto, lì ha votato contro, l'altro compagno non era presente, avrebbe votato contro anche lui, altri compagni di altre aree, sempre di sinistra della FIOM, si sono astenuti, ma diciamo Paolo ha espresso da sempre un voto contrario a questa piattaforma e abbiamo voluto intervistarlo perché per dare voce anche a chi chiaramente ha un'opinione contraria a questa piattaforma e pensa che sia insufficiente. Adesso sentiamo un bellissimo pezzo della banda popolare dei Miglia Rossi In Fabbrica, che lo sento poco in giro, invece è un bellissimo pezzo, e poi ascoltiamo Paolo Brini, funzionario della FIOM, che ci spiegherà perché ha votato contro nel comitato centrale alla piattaforma del contratto nazionale di rinnovo dei metalmeccanici. A dopo. Capo reparto, allenta la catena, che voglio restare. ci voglio andare in fabbrica, non ci vado più. Ciao Paolo, ecco di nuovo con te, è un destino tra la banda buona di Emilia Rossa, il nuovo album, le questioni sindacali, tu sei un funzionario della FIOM di Modena, siamo, insomma, ci vediamo spesso qui in radio e in questo caso abbiamo pensato a te perché abbiamo fatto una serie di interviste sul contratto nazionale, abbiamo ascoltato De Palma, abbiamo ascoltato anche il segretario regionale della FIOM Gianni Cotugno, perché loro chiaramente sono favorevoli alla piattaforma, l'hanno scritta, l'hanno sponsorizzata, l'hanno votata e la stanno spingendo in tutte le aziende, la ritengono una piattaforma buonissima, però invece tu sei tra i pochissimi che nel comitato centrale hanno espresso un voto negativo e per questo oggi ti intervistiamo. Vogliamo innanzitutto sapere le motivazioni che ti hanno portato a votare no nel comitato centrale e a fare anche una campagna a Modena come in altre città, insieme all'area regionale di Marzo, io sono stato da quelli, chiaramente anche nella mia azienda abbiamo portato la posizione del no, che è una posizione molto minoritaria, bisogna essere onesti con gli ascoltatori, però raccontaci, tu sei nel comitato centrale, siamo in pochi dell'area del giornale di Marzo, sei stato da quelli che più ha spinto chiedendo di votare contro questa piattaforma. Ecco, spiegaci le motivazioni. Ciao Gian Placido, ciao a tutte e tutti, grazie mille ovviamente per l'invito come al solito che mi fai. La ragione della mia contrarietà alla piattaforma che ha presentato la FIOM per il rinnovo del contratto nazionale è perché io la ritengo innanzitutto dal punto di vista salariale, che è uno degli aspetti più importanti, la ritengo una richiesta totalmente insufficiente. La ritengo totalmente insufficiente perché noi al congresso, ma anche diciamo così nei dispositivi della CGIL in tutti questi mesi, avevamo preso l'impegno di superare l'IPCA depurata, ovvero un meccanismo che ti garantisce di perdere potere d'acquisto, perché questo è il meccanismo dell'IPCA depurata. L'IPCA depurata è un indicatore che misura in un qualche modo l'inflazione, ma non tiene conto dell'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, che ovviamente hanno avuto e hanno una certa influenza, un certo peso. E penso che la richiesta che si fa non superi, perché appunto mantiene esattamente lo stesso meccanismo dei contratti precedenti, non supera ma applica l'IPCA depurata da un lato, e la richiesta che fa appunto da questo punto di vista è totalmente insufficiente e non prende in alcuna considerazione nemmeno la redistribuzione della ricchezza. C'è proprio un'indagine della FIOM stessa che dice che di Reggio Emilia, che le aziende hanno aumentato i profitti del 4,5% nell'ultimo anno, mentre i salari sono diminuiti del 7%. Quindi c'è una disparità dell'11%, almeno 11,5%. E noi con questa piattaforma siamo abbondantemente al di sotto sia del recupero dell'inflazione reale, perché è vero che il contratto che va a scadere a giugno, con l'aumento di giugno, avrà avuto un aumento di 304 euro al mese, ma in realtà l'aumento adeguato per recuperare tutto quello che è stato perso in termini di inflazione avrebbe dovuto essere di almeno 430-440 solo per recuperare l'inflazione reale degli ultimi 3-4 anni. E quindi, come dire, la richiesta di 280 euro di aumento, uno, è già inferiore a quello che hai totalizzato nei 3 anni precedenti e non è assolutamente, diciamo così, il massimo già come tipo di messaggio, e in secondo luogo appunto non tiene in alcun modo nemmeno in considerazione, non solo non recupera l'inflazione perché applica, ripeto, questo meccanismo di a perdere sull'inflazione reale e ovviamente non redistribuisce nemmeno di conseguenza la ricchezza. L'unico contratto che è riuscito a recuperare effettivamente l'inflazione è stato quello dei bancari, dove hanno avuto un aumento di 435 euro al mese, ma anche loro redistribuzione della ricchezza zero, perché appunto con 435 euro al mese recuperi giusto il potere d'acquisto e l'inflazione passata. Quello che avrebbe dovuto chiedere la FIOM è un aumento di almeno 300 euro e in più un meccanismo che è come quello che c'è già adesso di recupero dell'inflazione reale, dell'inflazione, ma non appunto con l'indicatore dell'IPCA depurato, ma dell'inflazione reale, questo però in più. Invece noi siamo in un contesto nel quale il recupero dell'inflazione reale assorbe, dell'inflazione, diciamo così, col meccanismo dell'IPCA depurato, di fatto assorbe tutti gli aumenti. Quindi è totalmente insufficiente dal punto di vista salariale. Dall'altro lato, anche sulle richieste normative, ci sono anche delle richieste sicuramente giuste, come quelle sulla riduzione dell'orario di lavoro, sulla limitazione della precarietà, ma anche qui noi abbiamo preso l'abitudine, un po' anche di altre categorie, di fare richieste vaghe, generiche, cioè non andare al punto, non fare rivendicazioni precise, ma lasciare alla vaghezza del tavolo. Non si fanno così le piattaforme. Ecco, io penso che una piattaforma avrebbe dovuto richiedere in maniera precisa la riduzione dell'orario di lavoro generalizzato a 35 ore pagate 40 in tutto il settore metalmeccanico, punto. Così come sulla questione degli appalti e quant'altro, della riduzione del livello di precarietà. E queste sono le ragioni per le quali io ho votato contro, perché ritengo che avremmo dovuto avere molto più coraggio e un pizzico più di coerenza rispetto anche agli impegni che ci siamo presi. Allora, quello che tu ci hai detto chiaramente lo condivido e ci fa capire fondamentalmente come purtroppo non ancora si ha l'idea e si ha la capacità e la forza di chiedere quello che è giusto chiedere. Chiaramente le motivazioni che tu ci hai presentato sono valide e io vorrei capire da te come mai dal tuo punto di vista non avviene la richiesta giusta, che dovrebbe essere insomma quelli di cui tutti qui ci hai parlato. Insomma, come mai il sindacato ancora è frenato quando si chiede le rivendicazioni salariali che vanno oltre semplice IPCA depurato, vanno oltre quello che si può chiedere e non si fa una battaglia dura per chiedere di più, quello che ci spetta di diritto e quello che farebbe sì che i lavoratori potesse veramente cambiare le condizioni economiche. La ragione per cui non si ha questo coraggio, io penso che sia per la totale sfiducia nei confronti della classe lavoratrice, della sua forza e della sua capacità di presa di coscienza e di conflittualità. Certo, se noi vediamo le adesioni agli scioperi proclamati in questi mesi dal sindacato, sì, non sono adesioni, come dire, esaltanti, ma perché? Perché non c'è volontà da parte dei lavoratori di scioperare, o perché i lavoratori vedono quegli scioperi come degli scioperi inutili, degli scioperi che non spostano nulla perché sono esclusivamente testimoniali e quindi di nessuna fiducia, di nessuna efficacia, scusate, mentre allo stesso tempo, come dire, c'è un elemento di sfiducia sicuramente dei lavoratori nei confronti dei vertici sindacali, che li rende ancora più, come dire, dubbiosi. Allora, noi dobbiamo invertire questa rotta, dobbiamo però avere fiducia nei lavoratori, e soprattutto per spingerli alla lotta bisogna che noi portiamo della carne al fuoco importante, e che siamo disposti a proporre un metodo, un percorso di lotta vero, duro, come avviene in altri paesi, come per esempio è avvenuto per il sindacato dell'automotive negli Stati Uniti, dove, guarda caso, si è andati verso una grande conquista, un aumento del 25%, il ripristino della scala mobile, lo si è fatto con 6 settimane di lotta. Ma perché si è arrivati lì? Perché nel sindacato dell'automotive, guarda caso, ha vinto la corrente di sinistra del sindacato dopo decenni, e questo ovviamente ha cambiato la linea del sindacato e la linea conflittuale dura, vera, di scontro di classe ha portato a questo grande risultato, e noi abbiamo molto molto da imparare. Terza e ultima domanda, quello che ti chiedo è, in realtà chiaramente la piattaforma verrà votata a stragrande maggioranza dei lavoratori. Questa piattaforma, secondo te, come verrà portata avanti? Assisteremo a delle battaglie, delle lotte? Ci sarà qualcosa simile a quello che è accaduto in altri paesi in Europa? Secondo te c'è la possibilità che i metalmeccanici comunque sia riescano comunque a portare a casa questa piattaforma e da lì partire una stagione di lotte anche per gli altri contratti? Questa era l'ultima domanda che ti facciamo, e ti ringraziamo per la tua pazienza. Grazie Paolo. Viva la banda popolare di Emilia Rossa, sempre. Sì, sì, viva la banda sempre. Ma al di là di questo, diciamo così, se stiamo vedendo a come stanno chiudendo i contratti nazionali, al di là appunto di quello dei bancari, che è 435 euro, gli altri più o meno si aggirano attorno, adesso quello degli alimentaristi ha una sorta di trucchettino, per cui ecco, sono 214 euro sui minimi più 66 su un'altra voce che non incide su tutti gli istituti contrattuali, e quindi sarebbero 280, ma sono 280 un po' col trucco. Nel commercio hanno firmato a 240 forse, eccetera. È evidente che con una richiesta di metalmeccanici di 280 si arriverà a firmare una roba che verosimilmente potrà essere attorno ai 220, 30, 40. Chiaro che anche qui il rischio che, nonostante ci sia una piattaforma molto, come dire, difensiva e poco coraggiosa, si sia lo stesso costretti a dover mettere in campo delle lotte, c'è tutto, perché ovviamente i padroni, come sempre, non si accontentano mai, e soprattutto questo meccanismo automatico per cui comunque hai il recupero dell'inflazione calcolata con l'IPCA, per quanto non sia sufficiente a recuperare il potere d'acquisto, però costringe i padroni e i metalmeccanici a dare una quantità di soldi che mediamente negli altri contratti non si dà, per quanti insufficienti, ma maggiori, e questo ovviamente fa imbestialire i padroni, che come sempre piangono miseria. Però quindi questo è un po' il paradosso, cioè potrebbe esserci il rischio di dover appunto fare lotte che non sia affatto un rinnovo contrattuale, come dire, in discesa facile, ma allo stesso tempo lo facciamo con le armi spuntate di una piattaforma piuttosto remissiva, piuttosto arrendevole. Quindi ci troveremo di fronte anche a questa contraddizione. Poi ovviamente saremo sempre in prima linea nel spingere la lotta, ovviamente se il contratto verrà approvato, cosa che sì, verosimilmente avverrà, anche perché, come dire, proprio per la poca credibilità che ha il sindacato in generale agli occhi dei lavoratori, come dire, non c'è molta spinta nel, come dire, molta, non si crede molto in questi vertici sindacali nelle fabbriche, e questa è un po' la cosa che noi dovremmo cambiare. Dopodiché, chiaramente, se ci sarà da lottare, saremo sempre in prima linea, ma ovviamente, come dire, rischiamo sempre di complicarci la vita per paura di chiedere troppo ai padroni, e se fossimo stati più coraggiosi, forse avremmo avuto armi più efficaci. Grazie mille e buona serata e buon lavoro a voi. di lei così intrigante, come una fidanzata o un amante, una ragazza appena risvegliata al canto d'una piazza soleggiata. È lei che è bastonata, inseguita e braccata, è lei che si rivolta sopra ogni barricata, è lei che è incatenata, tradita e imprigionata, che ci insegna a non mollare e non l'abbandonare mai. Sincera e delicata, una rosa, il nome suo tenete ben presente, è rivoluzione permanente. Allora, abbiamo ascoltato lei, sempre della banda Vola d'Emilia Rossa, il pezzo molto bello, fatto insieme. Allora, il primo pezzo in fabbrica era con i Gang, che è un pezzo loro in realtà, la canzone in fabbrica. Invece questo qui, il secondo pezzo che oggi abbiamo messo in radio, è lei della banda popolare Emilia Rossa, fatto con Modenese di Rambles. Ora abbiamo ascoltato Paolo, ripeto, chi si fosse perso tutta l'intervista può andare sulla pagina podcast Il Pane e le Rose. Ah, voglio dire, molti si chiederanno, ma com'è che non si è parlato oggi al Pane e le Rose della strage di Suviana? Cercherò di recuperare purtroppo anche il vostro speaker preferito, per secondo molti non sono così, non sono un granché, forse c'è una ragione. Ho avuto qualche problema di salute e non sono stato in piazza alla manifestazione che c'è stato, scioperato, è chiaro, però non sono potuto andare in piazza e dunque non sono riuscito a intervistare, non sono potuto andare a Suviana per parlare a chi era lì del posto, non sono riuscito a contattare i funzionari sindacali dell'Enel e non sono riuscito a fare una puntata e spero di recuperare in qualche modo, perché sapete che la sicurezza sul lavoro, quando succedono queste cose, il Pane delle Rose ne parla, è per noi elemento fondamentale. Poi faremo una puntata anche, come me l'hanno chiesto, sulla questione dell'articolo 17, sulla questione di genere, la questione dell'età, sulla sicurezza. E spero di fare il prima possibile la puntata sulla Lamborghini, dovrebbe essere quasi pronta questa mega puntata, e ne faremo un'altra imminente sul lavoro autonomo che avevo promesso. Finalmente la mia amica haters autonoma, che tanto critica le mie posizioni sindacali e le mie posizioni, insomma, finalmente riesco a portarla in radio, a fare una trasmissione in cui ci scontreremo tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo, vedremo cosa uscire a fuori. Poi, detto questo, dobbiamo parlare di quello che Paolo ha detto. Allora, lui ha spiegato benissimo tutto, io adesso non ho il tempo di recuperare tutto e di parlare di tutto, devo ascoltare la puntata. Dico solo una cosa: la piattaforma è passata, dobbiamo fare la battaglia tutti insieme, perché come dirigenti della FIOM, anche chi ha avuto una posizione contraria, è chiaro che si deve attenere alle decisioni dei lavoratori. I lavoratori hanno votato a favore a queste piattaforme, era scontato. che votassero a favore. 280 euro comunque sono sempre 280 euro per molti lavoratori, parliamo del contratto nazionale dei metalmeccanici, tutti i metalmeccanici che sono sotto Federmeccanica, dunque sono tante piccole aziende che quei soldi, insomma, i lavoratori sono molto contenti, per non parlare della parte perequativa, l'abbiamo spiegato con Gianni Cotugni, sono chi non ha il secondo livello di contrattazione, insomma sono tutte le motivazioni perché i lavoratori votassero a favore, chi era per il no era una piccola minoranza e tutto il resto. Ora, questa piattaforma va portata avanti in un momento di crisi, di lotte, di guerra, e noi tutti lotteremo perché queste piattaforme arrivi così come è stata votata dai lavoratori integra, sperando che ci siano sempre mediazioni che possano essere tollerate, che non snaturino già una piattaforma, come ha detto anche Paolo, un po' spuntata, che non è quello che noi ci aspettavamo. Ci aspettavamo molti più soldi, ci aspettavamo un meccanismo in cui ci fosse una specie di scala mobile metalmeccanica, che non è arrivata, ci aspettavamo cose più chiare sulla riduzione d'orario e su altre materie, ci aspettavamo meno soldi sul welfare, tutto il resto, però è andata così, è stata una piattaforma di compromesso con CISL e UIL, che Paolo non ha spiegato, ma quando io e Paolo, insomma, discutiamo con i dirigenti della maggioranza che sono favorevoli a queste piattaforme, cosa ci dicono? Ragazzi, l'abbiamo fatta con la WIM e con la FIM, CISL e UIL, insomma, dei metalmeccanici, è chiaro che ci sono state le mediazioni, questo è palese. Ora però bisogna portarla avanti, io spero che la FIOM riesca a convincere la FIM, soprattutto perché la WIM la vedo abbastanza convinta a dare sul serio, a muso duro, con una Federmeccanica che, se ci daranno altri soldi a giugno, arriveremo a 304 euro e non è disposta a tirar fuori una lira. Noi dovremo fare delle battaglie molto dure, le faremo tutti insieme, cercando di portare a casa anche questa piattaforma, che non è la piattaforma che io personalmente, Paolo e altri compagni volevano, ma è una piattaforma che sicuramente ad oggi molti lavoratori sperano di portare a casa con meno ore di sciopero possibile. Questo sarà, io penso, molto molto difficile, magari accadrà. Speriamo di non perdere il meccanismo che nessuno ha, quello che noi chiederemo che rimanga, dell'adeguamento all'IPCA depurata, ma sempre un adeguamento a una parte di inflazione che più o meno è 40-50% dell'inflazione totale, è sempre comunque un piccolo adeguamento che ci ha permesso da 112 euro arrivare a 300 euro in questi ultimi 4 anni. Ecco, questa è la mia speranza. Io vi saluto, speriamo alle prossime puntate, mi sono rimesso fisicamente, sono a posto, speriamo di recuperare quello che abbiamo perso in queste settimane, in cui non siamo riusciti a registrare. Un saluto a tutti i compagni e sempre alla lotta. Orgoglioso de estar.